Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Il Tevere è un fiume un po' particolare. Non si direbbe che, come tutti gli altri, viene da un rivolo tra i monti. Si direbbe invece che la sua fonte è dentro ai secoli, nello stesso punto lontano della storia in cui è nata una città, Roma. Ed è proprio a Roma, in riva al Tevere, che inizia la puntata di oggi di Destini Incrociati. Siamo alla fine degli anni venti e i lavori per la costruzione di argini e muraglioni attorno al fiume che percorre la città sono da poco terminati. Erano lavori necessari per evitare i danni della piena, ma per i romani costringere le acque del loro Tevere dentro a un recinto è stato un po' come vedersi allontanare da un amico. Per cui appena possono vanno a fiume, come si dice qui, e diventano da cittadini fiumaroli. A lungo Tevere ci vanno a fare lunghe passeggiate e i più sportivi si sfidano a nuoto oppure in barca nei tratti dove l'acqua è più pulita. Sui galleggianti e nei circoli fluviali si fanno pranzi e feste e anche gli artisti si ritrovano qui spesso. Scrittori, poeti e pittori soprattutto, attratti dal paesaggio. Anzi, proprio ora, mentre le campane di mezzogiorno riempiono l'aria, qualcuno ha già piantato a terra il cavalletto. È un giovane sulla ventina, molto distinto, e da come si destreggia col pennello si capisce che ha la mano esperta. È diplomato all'Accademia ed espone già da qualche anno. Oggi è qui a godersi il Tevere che scorre accanto a lui. Guarda le colline di Montemario sullo sfondo e il panorama gli dà l'ispirazione. Chissà, potrebbe uscirne un altro dei suoi quadri per le mostre, firmato in fondo a destra Renato Marino Mazzacurati. Renato Marino Mazzacurati. Siamo nel 1928 e Marino Mazzacurati è nuovamente in Accademia, assistente in uno studio di scultura. I suoi migliori amici sono Mario Maffai e Gino Bonicchi, detto Scipione. Li ha conosciuti attraverso i loro quadri, visitando la Biennale 3 anni prima. Quella mostra è stata un momento decisivo della sua vita. Esponevano Arturo Martini, Carlo Carrà, De Chirico e i futuristi, con linguaggi pittorici rivoluzionari. Scipione e Mario però con le loro opere mostravano qualcosa di diverso, interessante, e quando li ha incontrati è scattata subito una grande sintonia. Ora sono inseparabili. Mario abita in via Cavour con la moglie, anche lei pittrice. Si chiama Antonietta Raffaele ed è la sua voce ad accompagnarci nell'atmosfera di quei giorni. Roma da quelle parti era stupenda, tutte piazzette, casette, e noi avevamo una casa all'ultimo piano con un terrazzo enorme, meraviglioso, dove mangiavamo, dipingevamo, chiacchieravamo, e di lì c'era quella veduta che faceva rimanere senza fiato. Quella casa Marino la sente come fosse sua. Ci passano le ore discutendo d'arte, delle avanguardie che hanno creato una rottura col passato forte e provocatoria, e di quegli artisti che invece vogliono tornare a una purezza classica che riporti l'armonia. Ma loro quattro sentono che c'è spazio per un linguaggio nuovo, diverso, che non sa né di rottura né di ritorno all'ordine, una maniera di esprimersi nell'arte che ognuno deve declinare secondo il proprio stile. Questi argomenti sono all'ordine del giorno anche fra i giornalisti e gli scrittori che frequentano il caffè Aragno a Via del Corso. Si incontrano in una saletta dai muri color tabacco, con specchi e tavolini in ferro, e discutono tra un tintinnare di bicchieri e un buon caffè una scena che ben ricorda il giornalista Orio Vergani. Di cosa parlavano a bassa voce come congiurati? Parlavano di Leopardi, il primo dei convitati di pietra. Laggiù, in fondo, dietro i velari di fumo, tempestava col cappello duro buttato sulla nuca Filippo Tommaso Marinetti. E Bragaglia, coi baffetti a virgola, annunciava la prossima apertura del Teatro degli Indipendenti, con una novità di Pirandello che era entrato in quell'istante. Anton Giulio Bragaglia, citato da Vergani, è l'anima di una casa d'arte che a Roma chiamano Le Grotte. Uomo geniale, Bragaglia, ha scovato un antro sotterraneo che ospitava anticamente delle terme. Ne ha rivestito le pareti con l'aiuta e ha chiesto a Prampolini, Balla e De Pero di pensare alla decorazione. E loro, a colpi di pittura futurista, hanno creato un mondo favoloso, rutilante di colori. Le cosiddette grotte ospitano sale per cenare e un teatro dove Luigi Pirandello ha fatto il suo debutto come scrittore per le scene. Ma soprattutto ci sono spazi per le esposizioni. La casa d'arte di Bragaglia è nota anche a New York. E Marino, assieme agli amici, spera un giorno di essere proprio lì, tra gli artisti in mostra. Marino Mazzacurati ha un rapporto ormai profondo con Roma, che per lui non è solo culla dell'arte, è il luogo di mille suggestioni, legami d'amicizia, conoscenze più che preziose. Ma è giunta una notizia, deve partire. Lo attendono alla villa di famiglia in un paesino del nord e la prospettiva non lo alletta. Ma a Roma dice solo arrivederci, con la promessa di tornare presto. Mentre il viaggio verso casa è quasi al termine, il suo sguardo incontra un orizzonte piatto, costellato qua e là di case coloniche, valle di fieno e in fondo la macchia di un pioppeto. Un quadro non privo di poesia sul fare del tramonto, ma a vederlo con gli occhi ancora pieni delle vie romane è un mondo che diresti senza promesse, come dire, piccolo. Ecco il paese. Ecco il piccolo mondo di un mondo piccolo piantato in qualche parte dell'Italia del Nord. Là, in quella fetta di terra grassa e piatta che sta tra il fiume e il monte, tra il Po e l'Appennino. Nebbia densa e gelata l'opprime d'inverno. D'estate, un sole spietato picchia martellate furibonde sui cervelli della gente. E qui tutto si esaspera. Ad accogliere Marino Mazzacurati nell'estate del 1928 è il paese di Gualtieri, poco distante da Brescello, dove Giovannino Guareschi ha immaginato le avventure del suo Don Camillo. Siamo sempre in provincia di Reggio Emilia, in un mondo dominato dalla vicinanza del Po, un fiume amico, mite, generoso quanto rabbioso fino alla distruzione. Qui infatti non ci sono i muraglioni a fare l'argine, solo terra. Del Po si parla all'osteria e anche nei ritrovi del paese, tra agricoltori, braccianti, muratori e artigiani di falegnameria, con la capacità del fabbro e la creatività del pittore. È un mondo di cooperative, lavoro e solidarietà, dove la gente, quando alla radio ascolta il Duce, ricorda che Mussolini, da ragazzo, ha fatto il maestro elementare proprio lì, nella frazione di Pieve Saliceto. Come a dire che Gualtieri, ben oltre le apparenze, non è il mondo piccolo che sembra. Qui le passioni politiche esplodono violente e la lotta è dura, ma gli uomini rimangono sempre uomini e qui accadono cose che non possono accadere in nessun'altra parte. È inverno e Marino rimpiange le passeggiate a Lungotevere. Così, malgrado la temperatura sotto zero, si avventura verso la Golena. Il Po è gelato e così la terra. Il biancore è accecante, crea un panorama insolito, ma ancora più insolito è l'individuo che Marino vede affannarsi nei pressi di un capanno semisepolto dalla neve. Si muove in modo frenetico davanti a un fuoco di sterpaglie e, sentendosi osservato, si rifugia subito nel bosco lì dietro. Marino, con pazienza, lo convince a uscire e quello là, sia pure da lontano, accenna a una conversazione. Non so perché abbia cominciato a parlare con me, ma fu una conversazione prudente, a molti metri di distanza per avere modo di studiarmi. Io, d'altro canto, non riuscivo a capire da dove spuntasse quell'incredibile personaggio infilato in un pastrano da carabiniere rigonfio di fieno e legato tutto intorno con delle corde che attizzava il fuoco sotto un rudimentale fornello di mattoni. In una lingua incomprensibile, che era un misto di tedesco e di dialetto emiliano, mi spiegò che stava preparando la sua cena. Un gatto lessato in un bussolotto da conserva. Si preoccupò subito di dirmi che non l'aveva ammazzato lui, che amava molto gli animali e sarebbe morto di fame piuttosto che ucciderne uno. Il nostro giovane pittore ha più di un sospetto che di quell'uomo in realtà abbia già sentito parlare. Pia, che è la sua fidanzata, continua a dirgli di un disegno a carbonella su un muro del paese e pare che l'autore sia proprio quello là. Si chiama Tony e per cognome farebbe Laccabue. Ma solo a sentirlo pronunciare da via di matto. Dice, anzi urla, che lui si chiama Antonio Ligabue. Antonio Ligabue. Posso dire, per ciò che riguarda il primo incontro di Marino col Tony, che forse fui proprio io e involontariamente a procurarlo. Quelle scrofe coi maialini che io vedevo ogni mattina passando in bicicletta per Piazza Nuova erano un bel po' ossessive per me. Quei disegni a carbone sui muri scrostati delle case non passavano inosservati. Certamente ne ho parlato a qualcuno che allora si interessava molto a me. Pia Mazzacurati ricorda con queste parole, in una lettera al regista e scrittore Cesare Zavattini, un episodio che è l'inizio di un'avventura. Marino, mentre girava per la Golena, in realtà voleva sapere chi, oltre a lui, nel piccolo paese di Gualtieri, esprimeva in modo così evidente e personale un amore innegabile per la pittura. I see. Ma chi è Tony? Solo a vederlo ha un corpo che narra di povertà e di un passato misterioso. Ce lo descrive Sergio Terzi, detto Nerone, che a Gualtieri ha visto Tony tante e tante volte. Il corpo di Ligabue sembrava fosse stato messo insieme per scommessa, tanto era scombinato. Testa piccola, collo lungo come quello di una giraffa, spalle strette, gambe corte e uno strano modo di muoversi, a volte deciso, a volte silenzioso come le sue bestie quando stavano per aggredire qualcuno. Il suo viso somigliava molto a quello dell'aquila. Può darsi benissimo che Ligabue sia nato in un nido d'aquila. È un'esistenza tragica quella di Antonio. Nasce nella Svizzera tedesca, nel cantone di San Gallo, da un'emigrata italiana poverissima. Viene adottato, ma la nuova madre lo caccia dopo 19 anni non facili, perché lui è malato. Alterna fasi di calma a momenti di rabbia incontenibile che lo portano più volte in manicomio. Infine, anche per gli svizzeri, è un indesiderato e lo spediscono a Gualtieri, dove è nato il suo patrigno italiano. Ma perché Tony non lo può vedere? Ha ammazzato la mia vera mamma, il Lacabue, l'ha avvelenata. In tribunale hanno detto che è innocente, ma per me no, è un assassino. Ecco perché non voglio neanche chiamarmi come lui. Antonio parla tedesco. A Gualtieri fatica a capire cosa gli dicono e comunque da sempre sta malvolentieri fra la gente, si sente un rifiutato. Tenta qualche piccolo lavoro in cambio di cibo e di un riparo, ma infine sceglie il bosco come casa. Vuole stare in mezzo agli animali, si sente uno di loro, li ama come fratelli. E se di notte c'è la luna piena, passando accanto al suo capanno nel pioppeto, i contadini lo sentono ululare, come se fosse un lupo. Tony prova spesso paura. C'è un'angoscia che a tratti lo sconvolge mordendolo da dentro. Per consolarsi, fa una cosa che gli riesce bene da quando era bambino, disegnare. Ha solo mezzi poveri, rudimentali, ma con le sue figure decora le pareti del capanno e intanto trova un po' di pace. Questo dice a Mazzacurati quando lo incontra sulla golena, che dipinge e che fa anche le sculture con l'argilla del Po. E di rimando, ecco la risposta. Anch'io sono un artista, sai? Come te. Dipingo e faccio lo scultore. Dai, Tony, vieni a vedere. Vieni nel mio studio a Villa Malaspina. Tony ci pensa a lungo. Infine si decide ed eccolo sulla soglia. Lo studio di Marino è sotto il portico della palazzina, pronto ad accogliere uno strano individuo dileggiato e beffato da tutti, che vanta pretese da pittore. E una donnina piccola così, con due occhi grandi per guardare. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati abbiamo conosciuto Marino Mazzacurati, che un giorno sulla golena del Po ha incontrato un individuo strano, quasi selvaggio, Antonio Ligabue. Sono accomunati dall'amore per la pittura, ma per il resto totalmente opposti. Marino è un giovane uomo d'accademia alla ricerca di un proprio stile. E Antonio, un poveretto che disegna sui muri di un capanno in mezzo al bosco, dove vive assieme agli animali. Tutti lo considerano matto, e in effetti ha problemi di salute che lo hanno condannato spesso al manicomio. Mazzacurati sogna di tornare a Roma per studiare e immergersi in un mondo pieno di stimoli, mentre Ligabue ha in mente i panorami delle sue montagne in Svizzera, dove è nato. Il loro punto di ritrovo è Gualtieri, un paese della bassa reggiana che ospita Villa Malaspina. È qui la casa di Marino ed è qui che ha invitato Antonio, che ora è sulla soglia con in mano le sculture che realizza con l'argilla del Po. Mi disse, quando lo portai nel mio studio, che in passato aveva dipinto animali per i bersagli e le giostre delle fiere di paese. In pubblico Tony ha mostrato davvero poco la sua capacità. Quando entra nello studio ha davanti a sé una scena mai vista, tavolozze, colori, tele su cui dipingere, il suo sogno. Resta guardingo, scostante a tratti, tuttavia Marino afferra il suo desiderio e gli offre subito gli attrezzi del mestiere. Ma ancor prima offre ad Antonio un riparo, la sua serra, per stare lontano dal freddo e pitturare finalmente come piace a lui. Marino lo ammansì e gli ridiede fiducia. Si sentiva protetto e lavorava i primi quadri con grande serenità. Mazzacurati, prima di cominciare, vorrebbe dargli un po' di basi. Ma appare chiaro che Ligabue è di un orgoglio smisurato, si arrabbia a fargli scuola, non lesina reazioni vigorose. Dunque non resta che l'esempio. Tony osserva Mani e Pennello che mescolano i colori a olio. Lui non li ha mai usati. Cattura tutto, assorbe, impara da lontano come piace a lui e poi passa all'opera. È una rivelazione. Senza un progetto, almeno in apparenza, dipinge un quadro che ha già tutto in testa. Parte un dettaglio e c'è una forza in lui esplosiva che chiede solo di venire fuori. Usa colori intensi, vitali, e come tema ha gli animali con cui dimostra un legame a dir poco sorprendente, come racconta il suo biografo Marzio Dall'Acqua. In realtà, al lato del dipingere, si preparava immedesimandosi in ciascuno degli animali che avrebbe rappresentato, adattando il proprio corpo, altrimenti goffo e deforme, a riprodurne movenze, atteggiamenti tipici, sbattere di ali, digrignare di fauci, scatti di zampa ad aggredire, a difendersi, mentre ruggiva, ululava, mugghiava, pigolava e faceva mille altri versi, ripetuti ossessivamente. Sulle prime, Marino è stupito davanti a quel comportamento, ma l'immedesimarsi esasperato di Ligabue con gli animali diventa piano piano comprensibile, come la tessera di un puzzle molto più grande. È il racconto di un'identità, una storia che ora Marino sa decifrare. Per sopravvivere aveva percorso a ritroso le tappe dello sviluppo umano. S'era nuovamente immerso nella natura per domarla, per identificarsi in essa, in una natura che nella sua mente non era ancora esorcizzata dalla civiltà, ma gravida di pericoli primordiali. Non si rassegnava alla propria solitudine nevrotica, la pativa e voleva comunicare col mondo, voleva comunicare, imporsi alla sua attenzione, farsi uomo e avere il posto e lo spazio che gli spettavano e che gli uomini gli negavano. Mentre porta sulle tele tutto uno zoo di fiere esotiche e bestie da cortile, Ligabue mostra un gran senso delle proporzioni e i suoi soggetti sono scattanti, veri, pieni di dettagli interessanti. Marino si chiede da dove venga tutta quella conoscenza e una risposta la dà il critico d'arte Mario De Micheli. Aveva una conoscenza strana e curiosa del mondo animale. Quando era in Svizzera visitava i musei di storia naturale e io ho visto dei disegni di Ligabue in cui a memoria disegnava gli scheletri degli animali nominandoli osso per osso col nome tedesco. Si ricordava tutto, si ricordava. Quindi quando lui dipingeva o scolpiva un animale, lo scolpiva con conoscenza e mai in maniera approssimativa. Malgrado ciò, Antonio non riesce sempre nel suo intento. E se non è soddisfatto del lavoro, la sua reazione è più che eloquente. Se il quadro non rispondeva alle sue aspettative, lo colpiva con la testa. Seguiva un raccogliersi su se stesso, in posizione fetale, abbracciandosi le gambe e lamentandosi con suoni brevi, tra il gemito, il sospiro e il verso, come in un segreto compianto per un dolore inconsolabile, dal quale poteva sollevarsi all'improvviso per ricominciare a dipingere, o nel quale poteva rimanere prostrato per ore, inerte e vinto. Accanto a Marino Mazzacurati nel suo studio, Antonio Ligabue esprime finalmente se stesso. Dà corpo alla sua rabbia, mentre dipinge le fauci aperte della tigre che ruggisce o gli artigli di un ghepardo pronti a ghermire. Quelli sono il suo ruggito, la sua lotta per la vita. Ma con la stessa vivacità raffigura un'aia, il mondo degli animali accanto all'uomo, e infine se stesso. E così anche l'autoritratto diventa uno dei suoi temi preferiti. È così che nacquero i grandi quadri, con un impianto vigoroso, che oggi quasi stupiscono. Che non si può guardare dentro, fino in fondo proprio no. Io col mio movimento lento, spero di descrivermi un po'. Ma non si può sapere tutto, così ti annuso un po'. E la tua pelle sa di sale, non sembra ma ti abbraccerò. Marino torna a Roma, fonda una rivista culturale e intanto si adopera per Ligabue, parla di lui alla stampa, vorrebbe dedicargli anche una mostra. Presto però un dolore enorme lo colpisce, muore il suo più grande amico, Scipione. E non solo, gli affari di famiglia vanno a rotoli, per lui iniziano tempi bui. Intanto ci pensa Ligabue a far mostra di sé in modo rudimentale, pratico. Gira per il paese o per i casolari con i suoi quadri legati sulla schiena. Sono la sua mercanzia, li vende per sfamarsi. Ma la malattia torna a colpirlo, finisce ancora in manicomio più volte. La terza in particolare per un episodio che suscita curiosità in un redattore. Io ero affascinato dai racconti che avevo sentito di Ligabue e avevo rintracciato nella redazione del giornale di Reggio in cui lavoravo la notizia dell'incidente col soldato tedesco. La voce che abbiamo sentito è di un celebre attore di cinema e teatro, Romolo Valli, che durante la guerra lavora per la stampa e in questo ambiente lo strano individuo scoperto da Mazzacurati, mezzo matto e mezzo pittore, è già piuttosto noto. Viene a sapere che Ligabue a Gualtieri è stato fatto interprete degli occupanti nazisti perché padroneggia il tedesco. Ma durante un pranzo in una locanda ha spaccato una bottiglia in testa a un ufficiale. È difficile pensare a un gesto sovversivo perché Ligabue vive in un altro mondo, tutto suo, e di norma gli basta lo starnuto di qualcuno a farlo sragionare, si spaventa. La sua malattia lo salva dalla fucilazione, ma viene internato al manicomio di San Lazzaro, a Reggio Emilia. Fu incaricato di fare un'intervista a Ligabue. Ottenni da mio fratello, che era medico, amico del direttore dell'ospedale psichiatrico, un permesso e non mi fu difficile venire. È il 1945. Romolo Valli fa il suo incontro con Antonio Ligabue e da quel momento diventa suo ammiratore. Nella sua stanza, Tony conserva una gran quantità di quadri. Anche in manicomio è la pittura a tenerlo a galla, come ha sempre fatto. Ma dopo che Mazzacurati ha riconosciuto la forza del suo dono, Tony porta in sé una nuova dignità. L'approccio non fu facile. Ho detto che Ligabue era un uomo scontroso, insofferente, diffidente e orgogliosissimo. Se mai c'è stato un pittore consapevole del proprio talento, questo è stato proprio Antonio Ligabue. And the outside temperature rises, and the meaning is oh so clear. 1001 yellow daffodils begin to dance in front of you, oh dear. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo a Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, in attesa che Antonio Ligabue, un pittore dotato ma affetto da malattia mentale, esca dal manicomio. È stato rinchiuso per avere percosso con una bottiglia un ufficiale tedesco durante la guerra, più che un gesto sovversivo, un probabile atto di follia. Ma anche la guerra, con i suoi orrori, è una follia. E Marino Mazzacurati, l'artista che in circostanze del tutto inaspettate ha scoperto le doti di Ligabue, è a Roma e combatte questa follia dando riparo in casa sua ad ebrei e oppositori del regime, appoggiando la propaganda antifascista. L'arte, nelle mani di Mazzacurati, diventa uno strumento di denuncia contro la barbarie, mentre per Ligabue resta l'ancora per sopravvivere ai momenti bui della sua mente. Siamo nel 1948, la guerra è finita, Ligabue lascia l'ospedale. Fu un nomade, inquieto, incapace di fermarsi a lungo in un posto. Uno sradicato, pronto sempre a partire con le proprie cose, a lasciare senza rimpianti ogni legame, fievoli affetti, abitazioni sempre provvisorie, sempre caotiche, eppure anche capace di fare il nido, di ritagliarsi, come in manicomio, uno spazio minimo nel quale inseguire le sue visioni di bellezza e i suoi esorcismi tranquillizzanti. Marzio Dall'Acqua riassume in questo modo la vita di Antonio, che è quella di sempre, anche dopo il suo ritorno a Gualtieri. Ma il suo peregrinare lo porta anche negli studi di pittori e scultori che ha conosciuto grazie a Mazzacurati. Frequenta artisti come Andrea Mozzali e Arnaldo Bartoli, che allo stesso modo di Marino gli danno alloggio, protezione e qualche insegnamento. Ma Ligabue ci tiene a sottolineare che le doti sono solo sue e molto originali. Ma che imparato! Mazzacurati mi ha preso perché io ho fatto senza scuola, dono di natura, autodidatta. Queste relazioni ne incentivano altre, così Tony piano piano viene a contatto con altri artisti. E lui sempre a farsi accogliere restando schivo, guardingo, come un lupo che teme di essere catturato. Ma ci sono volte in cui è felice di lasciarsi andare. Era un uomo che si divertiva coi bambini, che i bambini amavano, perché quei bambini si buttava per terra, faceva i versi di tutti gli animali, imitava gli animali che dipingeva e quindi piaceva molto ai bambini. Ligabue non smette di sentirsi libero e a suo agio prima di tutto tra le bestie e a loro riserva una tenerezza unica. Adora i conigli, ad esempio, ma farebbe qualunque cosa anche per gli altri animali, con un attaccamento di cui è stato testimone il pittore Antonio Borghi. Quando venne l'alluvione del Po del 51, Ligabue rimase nella gollina con l'acqua fino alla gola, diciamo, ed è fuggito da questo, con stretto in grembo il suo cagnolino che aveva appena plasmato con la creta, perché gli ricordava il vecchio cane che era morto.